and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I Love Italy, siamo tornati in onda su Double RMI, Radio Miami International. Un saluto da parte di Andy che vi sta parlando dallo studio italiano di Radio Miami International, qua nelle colline dell'Oltrepò Pavese. Eccoci tornati in onda con i nostri 15 minuti in lingua italiana, dove vi raccontiamo della nostra nazione e innanzitutto ringraziamo Jeff White e la sua Double RMI, perché grazie a Radio Miami International siamo in onda sulle onde corte, e questo è uno spazio che dura 15 minuti. Noi in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi dell'Italia, parliamo di oggi, dell'Italia di domani e così via, e anche del passato. C'è qualcosa che riguarda la nostra nazione nel passato: cinema, arte, teatro, pittura, eccetera, eccetera, religione, chi più ne ha più ne metta. Io sono Andy Mangiarotti, se volete interagire con me vi ricordo un po' tutti i miei riferimenti, partendo dal mio sito personale www.andreamangiarotti.com, www.andreamangiarotti.com. Poi c'è anche il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio che ci ospita, www.wrmi.it. Net. Questi sono tutti i vari riferimenti di I Love Italy. A tutti voi benvenuti. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. E questo è il nostro gingolino in lingua inglese. Ovviamente è doveroso il ringraziamento allo staff di Radio Miami International che ci consente di essere in onda su alcune frequenze. Vi ricordo i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Quindi potete informarvi direttamente sul sito di Radio Miami International. I Love Italy, lo spieghiamo un pochino magari nuovi amici che per la prima volta ci stanno sentendo sulle onde corte, non è altro che un semplice rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto sulle onde corte da Okeechobee in Florida tramite Double RMI, Radio Miami Internazionale. Ogni mese vi portiamo 15 minuti di un talk show dove analizziamo i principali fatti di cronaca, costume, società, sia attuali che del passato, come ho detto in precedenza, tutto rigorosamente in Italian style. Il nostro salotto radiofonico vi può parlare di cinema, teatro, musica, storia, arte, personaggi famosi, più così, un po' di tutto, diciamo così, un po' di tutto. E allora iniziamo con i nostri ringraziamenti. Prima però ascoltiamoci un altro jingle, questa volta in lingua cinese. 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目。 正在播出的是 Andy Mangiarotti， 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it， andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。 Vi dicevo che i grandi protagonisti siete voi, potete richiedere se volete una cartolina QSL o semplicemente farci un saluto, potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per richiedere una cartolina QSL, per inviarci un rapporto di ricezione o semplicemente per farci un saluto. Allora, oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto da nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. Devo dire che è sempre un piacere ricevere lettere di ascoltatori un po' da tutto il globo. Salutiamo e ringraziamo Peter Goldfink da Perth in Australia. E il caro Peter mi fa sapere che ha ricevuto la nostra cartolina QSL dopo mesi di navigazione, diciamo così, ha ricevuto la nostra cartolina. Quindi grazie veramente al nostro amico Peter che ci ascoltava dalla bella Australia. Ora sentiamo un jingle in coreano e poi salutiamo un amico italiano. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. Ciao, dopo qualche tentativo nelle scorse settimane sono finalmente riuscito a ricevere la tua trasmissione su WRMI, I Love Italy. Ho scoperto il tuo programma grazie al tuo profilo Facebook, gli orari di frequenza, ma all'inizio il segnale era completamente coperto da un rumore di fondo. Oggi invece, grazie alla buona propagazione, ce l'ho fatta, ho ricevuto la tua trasmissione, è il giorno 24 aprile del 2025, dalle ore 22.30 sino alle 22.45 ora locale, cioè 22.30 20.45 UTC sulla frequenza del 15.770 kHz. La ricezione è avvenuta dalla Sicilia con un long wire di 50 metri collegata a un SDR. Il segnale iniziale S5 che è andato via migliorando con i minuti. Ti allego un frammento della parte finale del programma, quella più chiara ricevuta. Il mio nome è Gabriele Bafumi e ti lascio anche il mio indirizzo, abito a Catania e così via. Grazie Gabriele, al più presto possibile ti manderò la nostra cartolina QSL. Devo essere sincero, le abbiamo terminate, le ho appena fatte fare, quindi abbi un po' di pazienza e ti manderò la nostra cartolina QSL personalizzata. Poi sicuramente anche Jeff ti manderà un piccolo presente di I Love Italy. Grazie mille per i tuoi sforzi, per alcuni miei amici in giro per il mondo possono ascoltarti contemporaneamente a noi. Piccola correzione, l'orario preciso era dalle ore 22.30 alle ore 22.45, ora locale. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. E questo era un jingle in lingua francese per ricordarvi che se volete richiedere una cartolina QSL oppure volete farci sapere che ci siete, ci state ascoltando un po' da tutto il mondo, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi c'è anche il sito della radio www.wrmi.net, lì trovate praticamente un forum da compilare con il vostro rapporto di ricezione. Potete segnalare direttamente anche a Radio Miami se non avete voglia di stare lì a scrivere una vecchia cartolina, cioè diciamo così, per ricevere una cartolina potete ricevere anche la cartolina telematica che vi manda Jeff e tutto lo staff di Radio Miami Internazionale. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. en el aire Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. L'altra sera ho partecipato a una bellissima catechesi che univa due temi all'apparenza lontani, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e il movimento Slow Food Italia. Un incontro veramente interessante perché si è svolto, pensate, all'interno di una basilica qua nell'Oltrepò Pavese, la Basilica di Santa Marta, situata appunto a Broni, nell'Oltrepò Pavese, un paese tra le altre cose balzato alle cronache perché il buon Giorgio Armani, lo stilista Giorgio Armani, possiede una bellissima villa, residenza probabilmente estiva. A parte questo, vi dicevo di questa bella catechesi che ho ascoltato su Laudato Si di Papa Francesco, che è una enciclica sempre comunque attuale perché ci parla del nostro pianeta Terra, della nostra casa comune, come la chiamava Francesco, che oggi purtroppo, come ben sapete, soffre per l'inquinamento, il consumo sfrenato e quella che lui chiamava la cultura dello scarto, una mentalità che porta a buttare via tutto ciò che non è utile o redditizio, cose, risorse, ma purtroppo anche persone. Il Papa ci invita a uno stile di vita più sobrio, rispettoso, capace di custodire veramente il creato. Benché Papa Francesco non ci sia più ora, come ben sapete, c'è il suo, come potremmo definirlo, neanche sostituto, il nuovo Papa, Papa Leone. Comunque questa enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, rimane sempre attuale perché, diciamo così, ci parla del nostro pianeta, e soprattutto del pianeta che hanno vissuto i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che praticamente, a differenza nostra, loro amavano veramente la terra perché la custodivano e soprattutto la trattavano proprio come dei figli, no? Veniva oggi purtroppo c'è il continuo spreco di diserbanti, prodotti chimici, e questo appunto causa purtroppo dei gravi problemi con l'inquinamento. Ed è qui che questa enciclica di Papa Francesco la potremmo direttamente collegare con il movimento italiano Slow Food, che è un movimento appunto nato in Italia e promuove un mondo diverso di nutrirsi, vivere, basato su che cosa? Su un buon cibo, pulito e giusto, perché l'ambiente deve essere comunque sempre preservato. Due mondi così distanti, l'enciclica che ci ha regalato il Santo Padre Papa Francesco, il movimento di Slow Food Italia, che vuole preservare il nostro pianeta e soprattutto vuole preservare anche la nostra salute. E questo, direi, è fondamentale. Se volete avere maggiori informazioni su questo movimento Slow Food Italia, vi consiglio il loro sito slowfood.it. Volevo fare un'intervista con qualcuno dello staff, però i tempi erano veramente ristretti. Magari nelle prossime puntate di I Love Italy vi farò sentire un'intervista magari con qualche persona appunto di Slow Food Italia. Grazie per l'ascolto, cari amici, avete ascoltato I Love Italy. Noi ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International o Internazionale. Questa è l'Italia fatta di voci, colori e lingue diverse. Un caro saluto ad Andrea e come sempre un caro ringraziamento a Jeff White, che ci permette di essere in onda per parlare della mia nazione. Da Andrea è tutto, ora continuano le trasmissioni su Radio Miami International. Ciao a tutti, ciao, grazie per l'attenzione, ciao. I love Italy, yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy, yeah.